Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dimenticavo, la notte dell'incidente, arrivato a casa, mi ero fatto una doccia per riprendermi, scaldarmi le ossa e rilassarmi. E nel togliere i vestiti, in bagno, ho trovato pezzettini di vetro nelle mutande. Buongiorno, mi chiamo Massimiliano, ho 46 anni, abito in provincia di Piacenza e ho due figli, un maschio e una femmina. Il 27 di giugno è un giovedì. Il 27 di giugno, a meno che non abbiate dei figli che sono appena stati a casa da scuola e abbiate tanto tempo a disposizione, non siete ancora andati in vacanza, o perlomeno la maggior parte non è ancora andata in vacanza. Il 27 di giugno, se siete dalle parti di Milano, ma anche più lontano, e avete voglia di venirci a Milano, alle 21 c'è quello che noi definiamo l'evento live di questo programma, che è uno spettacolo finale in cui 10 storie che meglio rappresentano questa stagione vengono rilette, riraccontate dal vivo su un palco da me, insieme però a tutte le persone che hanno fatto questo programma. Il 27 di giugno, se non avete niente da fare, venite al live di Voi Siete Qui. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, finalmente è arrivato un po' di sole, è il 4 di giugno d'altra parte qui a Milano. La notizia però non è solo che il 27 di giugno c'è live, questo ormai ve l'abbiamo detto. La notizia è che se siete davanti a una radio, se siete davanti a un computer, il bello della radio è che non ci devi stare davanti, come dicevamo con Tiziano Bonini l'altro giorno, a differenza della televisione. Se siete davanti a un computer, andate immediatamente sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, che Voi Siete Qui, che è molto facile. Digitate su Google Radio 24 Voi Siete Qui, oppure ci accedete dalla home page della radio. E trovate, e lo trovate esattamente in alto a sinistra, di fianco alla foto del giorno, che è del protagonista della puntata di oggi, che è Massimiliano, di cui adesso racconteremo la storia. Trovate una fotografia mia dello scorso anno in cui facciamo live, Voi Siete Qui live 2013, accedi alla pagina, la scheda di accredito, ci cliccate sopra e la compilate, è molto facile, guardate, lo faccio anch'io, come dico sempre, lo dico anche in diretta a mia mamma, è facile, guarda, fai così, entri, parlo direttamente a mia mamma a questo punto, che di solito mi dice, è sempre un po' un casino gestire le cose dei siti, questo è facile, scheda di accredito eventi, è sempre lì, è sempre dalla home page di Radio 24 o dalla nostra pagina, Voi Siete Quella di 24. Nome, cognome, email, telefono, provincia, sesso, data di nascita, professione. Attenzione, ci sono due domande a questo punto. Perché, diciamo, visto che è gratuito l'evento, allora ne approfittiamo semplicemente per capire un po' i vostri gusti, per capire chi siete, cosa fate, dove andate, un fiorino. Professione, programma preferito 1, programma preferito 2. Occhio, state molto attenti. Vi ricordo, programma preferito 1, programma preferito 2. Tra l'altro i campi non sono obbligatori, però già che ci siamo, date il consenso, bla bla bla, e una volta per tutti, non dovete ricevere mail indietro, nessuno vi risponderà. Quello che dovete fare è, quando avete inserito i dati, una volta premuto invio, premere stampa. Quindi prima premete invio, mamma, prima invio, poi stampa. Stampi la registrazione. L'accesso alla sala, il 27 di giugno, sarà consentito previa consegna di questa scheda, compilata in ogni sua parte, firmata. Lo so che non tutti hanno una stampante, però al lavoro ce l'avrete, qualcuno, insomma, basta trovare il modo per avere il computer collegato alla stampante, invia e stampa. Poi ci vediamo il 27 di giugno alle 21 da via Monterosa 91 per il live di Voi Siete Qui. Torniamo alla storia di Massimiliano. La storia di Massimiliano è una storia che potrebbe essere stata, come dire, invogliata e inviata dal Ministero dei Trasporti per imparare ad andare piano in automobile. Non è così, è semplicemente una bella storia, però devo dire che una volta che l'ho letta, per qualche giorno e ancora ogni tanto mentre viaggio mi vengono in mente le immagini di questa storia e mi viene da andare piano. 349-238-6666, se avete voglia di dirci dove siete e dove state andando. Ecco, poi magari non vi chiediamo di mandarci un SMS con la velocità a cui state andando, perché non si può fare, perché dovete accostare, a quel punto sareste fermi. Però se state andando forte, magari guardate il contachilometri e decidete di andare un po' più piano. Quella sera di fine autunno eravamo andati a Milano. Eravamo un gruppo eterogeneo di amici e conoscenti suddivisi su due auto. Una era una monovolume e l'altra una Peugeot ipersportiva e nuovissima, il cui proprietario, indebitatosi per acquistarla, era orgoglioso sia per le indubbie prestazioni mostruose, sia per il fatto che in quell'anno ne erano state prodotte poche, forse il numero minimo per rendere legale l'utilizzo di quel modello per le corse. In pratica era un'auto da corsa omologata per circolare liberamente sulle strade. A Milano, in periferia, c'era una pista da go-kart al coperto. Noi eravamo accomunati da grande passione per i motori in generale, spettatori assidui di rally e sognatori di carriere da piloti. Sui go-kart quella sera ci siamo veramente sfogati e divertiti. Alla fine della serata era venuto poi il momento di tornare nel Piacentino. E così abbiamo imboccato la tangenziale, sotto una pioggia molto intensa. All'epoca, come lavoro, ero già un dipendente pubblico, ma era sempre rimasta, come ancora oggi, la passione per gli sport automobilistici, in particolare, forse anche perché più si giovani più si ha un po' di incoscienza, ci eravamo trovati e deciso di andare a provare a girare con dei go-kart in un capannone. Sulla Peugeot eravamo in quattro: il guidatore, poi io dietro al guidatore, alla mia destra invece un conoscente di cui ricordo solo a un certo punto gli occhi nel buio pesto dell'abitacolo, e poi vi spiegherò il perché, e il passeggero di fianco al guidatore. Come vedete, la mia memoria è un po' lacunosa, del resto sono passati già più di 10 anni. Insomma, il guidatore schiaccia sul gas. La Peugeot rivela una potenza davvero entusiasmante e viaggia come un missile sulla tangenziale buia, sorpassando diversi veicoli che per la pioggia proseguono a velocità molto inferiore alla nostra. C'è un bel tepore sull'auto e contrasta con i vetri freddi e con il rumore della pioggia forte. La macchina prosegue, la radio accesa, poche chiacchiere perché dopo la tensione della guida con i go-kart siamo rilassati. Andiamo molto veloci. Dietro di noi i fari sono lontani e anche davanti, allontanandoci dalle città, le macchine diventano rare. Io sento ogni tanto un rumore sotto i piedi. È simile a quando la pancia della macchina struscia la neve sulla strada. Insomma, avete capito, non essendoci neve, quelli erano spruzzi d'acqua che le ruote sollevavano dalle pozzanghere. Ogni tanto questo rumore sordo sotto i piedi e la sensazione che l'auto fosse quasi per un attimo frenata nella sua corsa. Comincia in me in una sensazione di irrequietezza, perché sono davvero un amante dei motori e forse alla lontana anche un pilota mancato, e questo mi fa capire che il mezzo è lanciato a tutta velocità in un ambiente in cui bisognerebbe indubbiamente andare più piano. Magari non di molto, non so, 30-40 km all'ora in meno, così, per stare al sicuro. E invece siamo a bordo di un missile che vola a rasoterra nella notte fredda e piovosa, su un asfalto con pozzanghere e brevi fenomeni di aquaplaning che a quanto pare il guidatore ignora completamente. Ad oggi non so ancora se per scarsa conoscenza della macchina nuova o mancanza di sensibilità. Ma fra noi ci conosciamo poco. I miei amici per combinazione sono finiti tutti sull'altra auto che è partita prima di noi. E chi lo sa, forse il guidatore vuole recuperare lo svantaggio. O forse vuole dimostrarci quanto è potente e stabile la sua macchina nuova. Non ha importanza, il fatto è che non essendo proprio amico, io non mi sbilancio nel dirgli quello che sento, ossia che stiamo andando davvero troppo veloci. Dal mio posto sbircio invece, riflessa sul vetro laterale del guidatore, l'immagine del cruscotto. Non riesco a leggere le cifre, ma ancora 2 o 3 numeri e la lancetta sarebbe a fondo corsa. 170, 190 all'ora, non lo so. Che poi magari era il contagiri e non il contachilometri che credevo io. Intanto però i rumori sotto i piedi si ripetono. Quasi un ruggito interrotto sotto al pianale della Peugeot. E questa sensazione di momentanea frenata. Sono teso. Nessuno parla. Si sente solo la musica della radio. A un certo punto il socio, seduto accanto a me, anche lui conosciuto quella sera, mi si avvicina con la testa e molto educatamente mi domanda: «Ma non ti sembra che stiamo andando un po' troppo forte?» Ed è quasi un sollievo per me, una conferma di non essere io ad avere sensazioni sfasate rispetto alla realtà. E quindi gli rispondo a bassa voce di essere d'accordo con lui. E in quel momento, nel buio della cabina di guida, vedo i suoi occhi molto aperti, quasi luminosi. Intanto la Peugeot sfreccia sotto la pioggia battente. E poi, senza che io possa dire inaspettatamente, accade. Il ruggito stavolta è forte e prolungato. La fisica dell'aquaplaning ha vinto sulla tenuta di strada della macchina da corsa, forse per colpa, oltre che della velocità, delle gomme larghe e della profondità dell'ultima grande pozzanghera. Di colpo la macchina si mette di traverso, con il muso verso il guardrail di destra. Io afferro i due poggiatesta dei sedili anteriori e caccio la testa fra i sedili davanti abbassandola. Inutile dirti che non indossavo le cinture di sicurezza e forse per puro caso è stato un bene. Chiudo gli occhi e aspetto l'impatto che puntuale arriva. Dopo chissà, 2-3 secondi. Una botta forte. Gran rumore di ferraglia accompagnata dagli scoppi degli airbag e dai vetri che vanno in frantumi. Dicevo una botta forte ma tutto sommato non fortissima. Dato che riaprendo gli occhi nel fumo dell'esplosione degli airbag, posso vedere fuori tutto il resto illuminato da almeno uno dei fari anteriori e pensare che è finita ed è andata bene. Ma non è finita. L'urto con il guardrail non ha apparentemente abbassato la velocità del mezzo, anzi l'impressione in quel momento è che la macchina stesse proseguendo di traverso più o meno alla stessa velocità di prima, come un sasso su un lago ghiacciato. Incredulo e ancora aggrappato ai poggiatesta anteriori, vedo attraverso la sede dell'ex parabrezza proprio i montanti del guardrail che sfrecciano veloci da sinistra verso destra e la macchina che continua la sua corsa sgangherata ruotando il muso contro marcia. Ricordo che ad un certo punto, mentre la pioggia gelida entrava nella cabina, andavamo all'indietro ancora veloci, molto veloci. Intanto c'è da dire che l'incidente è durato molto, cioè non è stato solo un impatto, ma almeno 2 e in tutto penso che sia durato dai 20 ai 30 secondi, quindi è rimasto abbastanza impresso. In quel breve momento ho visto in lontananza i fari delle auto che viaggiavano sulla nostra carreggiata nella nostra direzione. La rotazione su se stessa della Peugeot però prosegue dopo l'impatto di cui parlavo, mentre il veicolo trasla nuovamente verso il guardrail. Questa volta non sarà il cofano ad urtare la barriera, ma lo spigolo posteriore sinistro, cioè quello più vicino a dove sono seduto. L'urto è ancora abbastanza forte, la sensazione poi è amplificata dal rumore delle lamiere che si contorcono e direi sfrigolano contro l'acciaio del guardrail. La macchina letteralmente comincia a segarsi sullo spigolo colpo dopo colpo contro i montanti delle barriere stradali. Il rumore della seconda fase dell'incidente è una raffica rapida e infinita di colpi, come dicevo, contro i piantoni del guardrail. Si staccano il paraurti, la parte terminale della marmitta, la ruota posteriore sinistra, il faro e forse altro. E poi, finalmente, l'ex Peugeot, esaurita la forza di inerzia, si accascia silenziosa a fianco della strada. Piove in macchina. C'è freddo, c'è buio, c'è ancora un po' di fumo degli airbag. Scendiamo dall'auto, per fortuna tutti parliamo e stiamo in piedi. Mi sento un po' di sangue tra le dita, fra i capelli, ma è poca roba. Nessuno in realtà si è fatto male, a parte modeste contusioni. Comincio però a preoccuparmi del fatto che da lontano stanno avvicinandosi le macchine dei prudenti che ci seguivano. Il guidatore non capisce bene la situazione, è un po' sotto shock. Non crede a me né al mio socio, Occhi Bianchi, quando gli diciamo che bisogna correre indietro a recuperare i pezzi persi e rimasti sull'asfalto prima che succeda qualcosa di grave alle altre auto. Il guidatore però dice che non sono pezzi suoi, della sua macchina, che l'incidente è stato lieve. Quando poi si trova a guardare circa 100 metri più indietro una ruota fumante, capisce il tutto. È proprio la ruota della sua macchina. E poco più in là la marmitta, anche lei fuma sotto la pioggia. Comincia a scusarsi, a rendersi conto. Il resto del racconto non importa, è la solita trafila. Polizia stradale, carro attrezzi, un cappuccino all'autogrill con le mani tremanti, le telefonate ansiose degli amici e i nostri volti molto pallidi e i sorrisi un po' forzati. Quel che però volevo raccontare con questa storia è la sensazione che ho avuto per alcuni giorni dopo il fatto. I normali contatti che ho avuto con amici, familiari, conoscenti, insomma con altre persone anche all'oscuro di quello che era successo, sono stati accompagnati da un pensiero molto intimo, rivelato a pochi e poco alla volta, ossia la chiara sensazione di essere fuori posto, la consapevolezza di essere ancora incredibilmente fra le persone vive, eppure quasi impercettibilmente distaccato e soprattutto stupito di poter semplicemente parlare con la gente. La consapevolezza di essere vivo, una sensazione che nello scorrere della vita forse a volte si mette un po' troppo da parte. Ah, dimenticavo, la notte dell'incidente, arrivato a casa, mi ero fatto una doccia per riprendermi e nel togliere i vestiti, in bagno, ho trovato pezzettini di vetro dappertutto, anche nelle mutande. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I will survive, I will survive. Claudio scrive che per andare piano lui ha un metodo infallibile. Guarda su YouTube video di incidenti stradali. Non è cinismo, è la migliore educazione stradale possibile. Ognuno c'ha il suo, Claudio. Alcuni dicono che questo in realtà per molte persone non funziona perché c'è una sorta di meccanismo di rimozione. Però la storia di Massimiliano un pochettino racconta di quando c'è un eccesso, in questo caso non suo ma da parte del guidatore, un eccesso di fiducia e un eccesso di sicurezza, e quella sicurezza spesso ti frega. 349-238-6666 vale non solo per gli incidenti stradali, fortunatamente o disgraziatamente, non lo so, il fatto che delle volte esageriamo nell'avere fiducia in noi stessi. E quella roba lì diventa presunzione, diventa in alcuni casi anche arroganza, e spesso si fanno dei piccoli disastri. 349-238-6666. Andiamo però da Massimiliano, che mi deve veramente spiegare questa cosa, che dice questa sensazione di essere fuori posto. Pronto Massimiliano? Ciao Matteo. Come stai? Ciao. Sto bene, grazie. Sto bene. Benissimo. Sono passati 10 anni tra l'altro da allora, quindi... Forse anche... qualcuno in più, di la verità. E poi si è trattato solo di avere un po' di vetri nelle mutande, mi sembra di capire alla fine. Sì, un pochettino di sangue fra i capelli, ma niente, come dicevo nella lettera, ne racconto, anzi, niente di grave. Niente di grave. Mi spieghi questa cosa, che è questa considerazione finale, no? Che tu fai, cioè che posso, chiaramente posso capire il fatto di sentirsi quasi sopravvissuto, quasi, sì. Di sentirsi un sopravvissuto e di avere una sensazione di essere, la sensazione di essere fuori posto. Me la spieghi? Mi chiedi una cosa non facile, anche perché da quando la settimana scorsa mi avete contattato per avvertirmi che racconto era stato selezionato, ho riletto ovviamente il testo e direi che ancora oggi non riesco a trovare una frase più idonea, però forse l'unica cosa è il fatto di riuscire ad ascoltare quasi a fatica quello che mi dicevano le persone, no? Con una sensazione che dietro ogni dialogo quotidiano, dietro la nostra quotidianità, c'è spesso e viene trascurata l'importanza dell'esistenza. Adesso mi sto... No, ho capito, è un discorso, è altissimo come discorso, quindi no, è un po' labirinto. Un po' lo capi... Ma no, è un po' come quando dici, guarda, quando stai male, hai mal di testa o hai mal di denti e ti passa, dici come si sta bene quando non si ha nessun male, è una... banalità, ma è più o meno, no, è una banalità, più o meno spesso, è così, più o meno è così, è la consapevolezza, insomma, avere consapevolezza di chi si è e come si sta. Ecco, senti, Massimiliano, invece andiamo un attimo lì, in quell'automobile, no? Perché la situazione è molto chiara, cioè siete 4 persone che si conoscono molto poco, giusto? Sì, in auto. Un po' in più qualcuno e altri meno, sì, esatto, un gruppo eterogeneo, no? Però sto tizio, sto guidatore, nessuno ha il coraggio di dirgli guarda che sta andando troppo forte. Nel momento in cui vi siete ritrovati in piedi, va tutto bene, avete recuperato i pezzi di auto e siete andati all'autogrill, qualcuno gli ha detto sei un imbecille oppure no? Allora, io non so, io parlo per me perché ovviamente conosco il mio carattere, anche se magari come tutti non in tutti gli angoli, no? Ma praticamente lui ha cominciato a scusarsi e... dopo che ha visto i pezzi della macchina così lontano dalla carcassa, no? Si è scusato, era anche quasi sul punto di piangere, gli tremava la voce e balbettava. E quindi a quel punto non hai più il coraggio di dirgli ma sei veramente un cretino, cioè a quel punto no, anche perché, è difficile perché non ho messo le mani avanti. Più che un cretino gli avrei detto che era un incosciente e che non era certo il pilota che sembrava essere, no? Cioè, io penso che questa lezione, lui è stato il primo a capirla. Ecco, l'hai mai più rivisto? Sì, a volte sì, adesso organizza delle corse automobilistiche, non è che è migliorato molto. Però non so se fa da pilota lui, no? È un organizzatore qua in Valtrebbia, spesso ci sono delle, cioè spesso, qualche volta all'anno ci sono delle corse. Va bene. Massimiliano, ti ringrazio. Scusami, la macchina era una Peugeot 205? Perché a questo punto... Guarda, io con la Peugeot, che la odio un po' proprio per questa maniera di dare sempre i numeri ai suoi modelli, è il modello più evoluto, penso 208 o 207. Va bene, no, perché mi è rimasto impresso, da ragazzino andava moltissimo la 205 GT. Ecco, era la figlia potenziata di quella. Benissimo. Massimiliano, ti ringrazio per la storia, in bocca al lupo per tutto. Io. Buona giornata. Ciao, grazie. 349-238-6666, Lorena mi scrive, io e mia figlia torniamo a casa per la Romea dopo 2 giorni a Ravenna, 70 km all'ora e un ghiacciolo a tenerci compagnia. siete qui. Voi siete voi qui. Siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Alla faccia illuminata dalla luminosità dello schermo del computer, Massimiliano, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio24, sulla nostra pagina. Voi siete qui, proprio di fianco alla scheda di accredito da compilare per partecipare al live del 27 di giugno. Ha una faccia simpatica, ha un maglione con la zip nero e fa ciao ciao con la manina proprio alla webcam. Alle sue spalle si vede un pezzo di casa sua che così a naso è il soppalco, perché si vede anche un pezzo di tetto in legno, sapete, le travi del legno. È come se fosse il soppalco dove Massimiliano ha le sue cose. Ognuno in casa c'ha i suoi spazi, il suo è il soppalco. Presunzione, sostantivo femminile. Atto o atteggiamento ispirato ad ambizioni o pretese orgogliose e indisponenti. Supposizione, congettura. Etimo, dal latino presumptio, presumptionis, derivato di presumere, presumere, presumere, presumere, presumere, presumere. Data, prima metà, secolo XIII. Sì, perché la parola chiave è presunzione, nel senso che ha a che fare con un eccesso di sicurezza, che è quello che succede al guidatore della Peugeot, non si è capito bene che numero, che modello, del racconto di Massimiliano, che non ha nemmeno bisogno di fare il grosso con gli amici, semplicemente schiaccia sull'acceleratore e ne escono tutti quanti illesi per una gran botta di fortuna. Capita però appunto di avere degli eccessi di sicurezza in un sacco di altri casi e di andare a sbattere semplicemente metaforicamente la faccia. Stefania scrive: l'ho fatta mille volte, conosco tutti gli ingredienti a memoria di quella torta, ho fretta e faccio al volo la ciambella per stasera, sono talmente sicura di me che non peso nessun ingrediente, vado a occhio con tutto, accendo il forno a manetta, risultato: sale al posto dello zucchero, dura come cemento armato e bruciata in più punti, e soprattutto vedere gli amici che sputano la tua ciambella. Ecco, quello non deve essere proprio un bello spettacolo, anche se non deve essere molto bello per loro. E poi Chiara sul profilo Twitter del programma che dice: a proposito di eccesso di sicurezza, va, questo esame si copia tutto, non apro nemmeno un libro. Risultato: promossi in 60 su 200, io tra i 140 bocciati. 349-238-6666, non c'entrano eccessi di sicurezza, però qualcuno mi fa notare che nell'elenco dei mestieri segnalati sulla scheda di accredito non c'è il suo. Guarda, allora, innanzitutto mi sembra un punto a favore del tuo mestiere, in realtà, nel senso che sfugge a qualsiasi catalogazione, guarda, prendila così, altrimenti metti altro, cosa non so, impiegato, imprenditore, libero professionista, metti libero professionista che va sempre bene, studente, altro, guarda, c'è anche altro, agricoltore, commerciante, dirigente, docente, non occupato, pensionato, giornalista, analista finanziario, ingegnere, ma c'è quasi tutto. Che mestiere fai esattamente? Per parlare di eccessi di sicurezza, oggi volevo leggervi una storia che mi è arrivata proprio questa mattina, quando ho caricato sul profilo Facebook del programma un pezzo di storia di Massimiliano, come faccio tutti i giorni. È successa una cosa abbastanza normale, che quando fai un esempio molto preciso, e quell'esempio molto preciso riguardava un incidente d'auto, sono arrivate storie che riguardavano incidenti d'auto e eccesso di sicurezza oppure presunzione riguardo alla capacità di essere un abile guidatore, che invece poi non si rivelava tale. Mi è arrivata però un'altra storia che un po' ha a che fare col guidare, anche se non si tratta di un'automobile e si tratta di una nave, e me l'ha mandata questo Alfredo, che immagino essere appunto un comandante, un ex marittimo in pensione, che con molta serenità spiega come la sua carriera sia partita da un punto, abbia raggiunto un massimo punto di eccesso di sicurezza e lì tutto è crollato. Caro Matteo, questa è la storia di uno che ha sempre pensato che essere sicuri di sé trasmettesse fiducia alle persone che incontrava, e invece si sbagliava. Quella persona sono io, e ho radicalmente cambiato il mio modo di sentirmi sicuro dopo aver esagerato, la volta in cui la sicurezza si è tramutata in arroganza. Ho lavorato sulle navi per una vita intera e sono partito come sottufficiale in seconda per diventare comandante di mercantili. Ho navigato in tutti i mari del mondo, ho attraversato stretti e sono entrato in porti che nemmeno ci si immagina possano esistere. E nel tempo ho acquistato sempre più confidenza e sicurezza, grazie alla pratica. Una decina di anni fa mi trovai a dover attraccare ad un porto di nuova costruzione che non conoscevo e per il quale le carte nautiche non erano ancora state aggiornate. si trovava sulla costa sud del Salvador. La navigazione era stata lunga e complicata da una bassa pressione che aveva sollevato onde molto alte per 2 giorni di fila e ci aveva rallentato. L'equipaggio era stanco ed eravamo in ritardo per la consegna del carico. Entrati in rada, le indicazioni dal porto erano di dare ancora e attendere l'arrivo dei piloti. Io però mi convinsi che conoscevo a menadito le manovre di attracco e sarei stato in grado di gestire l'accosto alla banchina da solo. Nonostante il mio secondo mi sconsigliasse di farlo, io fui come preda di una sorta di autosuggestione da sicurezza, al punto che quella decisione si trasformò in una sorta di sfida contro la mia stessa insicurezza. Nel compiere la manovra di avvicinamento, non calcolai i bassi fondali causati dall'emissione di un grande fiume limitrofo al porto, che portava con sé grandi quantità di sabbia, e in quei fondali ci rimasi incagliato. Non persi il lavoro, non ci furono troppi danni. L'assicurazione però dovette pagare molto salato l'arrivo dei rimorchiatori che ci portarono fuori da quelle sabbie. Eppure da quel giorno la mia concezione di me cambiò. La mia sicurezza si trasformò in cautela e nonostante non avessi perso le mie capacità professionali, continuai ad avere una sorta di salutare timore delle situazioni poco conosciute, grazie al quale conclusi in maniera pulita la mia carriera. Oggi è solo un ricordo, ma credo di dovere qualcosa a quel banco di sabbia in quel porto del Salvador, anche solo per avermi restituito la mia giusta dimensione. Alfredo. Had a dream, you and me in the war of the end times. You receded in too long. Niente, mi ha chiamato mia mamma dicendomi che non è così scema che le devo spiegare tutto quanto il form per iscriversi e che comunque i biglietti potrei tenerglieli anche. Mamma, guarda, essendo gratuito non ti posso tenere nessun biglietto. Vai sul sito di Radio 24, vai alla nostra pagina e trovi la scheda di accredito per il live del 27 di giugno 2013 di Voi Siete Qui. Ore 21, via Monterosa 91, gratuito come al solito, basta compilare quella scheda che trovate sulla nostra pagina. Voi Siete Qui, Radio 24. In bici senza mani, a proposito di presunzione, in bici senza mani e mi sono trovato senza 2 denti. Mino, io ringrazio tutti quelli che hanno fatto questa puntata anche oggi, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina e Pietro Lacorte. Ringrazio soprattutto Massimiliano per averci raccontato la sua di storia, perché quella di oggi appunto l'aveva scritta e l'aveva mandata lui, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Nuova Volkswagen Golf per la vostra flotta. Da oggi anche con Business Pack.